direi che possiamo iniziare, visto che sono le 18 per qualche minuto. Vi ringrazio di essere così numerosi, questa aula magna è grandissima, è nuova, è bellissima e non siamo abituati a tutto questo spazio. La biblioteca provinciale che rappresento, sono Valeria Trevisa, la direttrice, è una biblioteca molto piccolina che da 15 anni svolge un'attività di ricerca e documentazione, via meglio da 5, e da quando è nata si è sempre prodigata per organizzare delle iniziative anche di promozione, di cultura, di lettura, dibattiti e soprattutto presentazione di libri, proprio per favorire l'incontro fra autore, autrice e il pubblico, il lettore o la lettrice. Crediamo molto in questo tipo di lavoro, di iniziative, e adesso siamo arrivati al punto che abbiamo così tanti libri che dobbiamo uscire per promuovere la biblioteca e per riuscire ad avere appunto un riscontro con il pubblico. Quindi gireremo, se avete piacere di avere informazioni sulle nostre attività, abbiamo delle locandine fuori su un tavolo all'entrata e soprattutto potete venire a trovarci in via Mendola 5. Ringrazio tantissimo il Liceo Classico e soprattutto il preside, il professor Fedevilla, che ci ha ospitato e che ci ospiterà ancora nel nostro migrare. Siamo anche contenti di questa avventura perché i cambiamenti nella vita sono sempre forieri di novità e forse anche di prospettive nuove, quindi ci dobbiamo solo abituare a delle misure, a prendere le misure con questa nuova attività di lavoro in esterna, diciamo in questa maniera. E il signor Furlanetto è un esperimento per noi, nel senso migliore del termine, proprio perché si è prestato a questa prima uscita ufficiale della biblioteca appunto nel liceo classico, che è direi la cornice ideale anche per quello che presentiamo questa sera. Il dottor Furlanetto è venuto in biblioteca in primavera, mi aveva presentato questo libro, l'ho letto penso il giorno dopo, in 3 giorni, e mi ha catturato tantissimo perché aveva una trama molto interessante, è scritto bene, e la storia è una storia molto avvincente, ma soprattutto colpisce il lettore perché in qualche maniera si ritrova o per sentito dire o per racconti in casa o perché comunque tocca delle corde molto personali, riesce a stabilire un contatto diretto con chi lo sta leggendo, e questa non è solo una mia impressione come lettrice, ma anche un riscontro che ho avuto dalle persone che conosco e alle quali ho chiesto di leggere il libro, insomma, in questi mesi. In biblioteca viene prestato, abbiamo però questa sera anche la possibilità eventualmente di acquistarlo. E questa serata è una serata un po' particolare perché avremo non solo l'autore qui a disposizione del pubblico per delle domande, ma anche un'attrice, Carmen Esposito, che in seguito leggerà e soprattutto interpreterà alcuni brani di questo romanzo. Adesso farei qualche domanda al dottor Furlanetto. Innanzitutto, come le è venuto in mente, da dove è scaturita l'ispirazione per scrivere un romanzo di questo genere che accompagna una grande porzione della vita di una persona? Ma è difficile dirsi incominciare. Ho incominciato a scrivere un po' a braccio. Diciamo che non avevo un'idea di come si sarebbe conclusa la storia, ma come iniziava. Mi piaceva man mano che si sviluppava, creavo dei personaggi a misura, di situazione, ma quello che mi piaceva più di tutto era un certo continuum che c'è nella storia, tra padre e figlio, per esempio, del condizionamento dato dai regimi, siano essi dovuti a patriottismo, regime vero e proprio come c'è stato purtroppo durante il fascismo, e che hanno condizionato loro la vita pesantissimamente, come ce la condizionano tutt'oggi, perché noi non siamo immuni da questi fenomeni. La prima guerra mondiale con un patriottismo spinto, un nazionalismo spinto, che volevano far sì che il nostro paese si portasse a livelli che in pratica erano già raggiungibili. La stessa cosa per il fascismo. Questi fenomeni che hanno alla fine condotto a guerre spaventose, assolutamente inutili, o comunque non risolutive, E ogni volta che mi sono trovato in luoghi che ricordano queste situazioni, purtroppo cimiteri, guerre, zone di combattimenti, zone di devastazione che ci sono state, c'è stato qualcosa che mi ha preso. Ho fatto l'alpino, quindi sono ancora più sensibile a questo tipo di problematiche, di sensazioni, vorrei dire meglio. Ed è venuta fuori questa storia, è venuta fuori da sé, non vorrei dirlo, ma quasi a livello onirico, soprattutto di notte, mi prendevo appunti di notte e riviluppavo la mattina, ecco. Quanti, ci sono degli aspetti autobiografici all'interno di questa storia? Sì, per quanto possibile, perché autobiografici in una gradualità, ecco. Però mio padre, che ha combattuto la prima e la seconda guerra mondiale, guerra d'arte, che ho scritto nella prefazione, non parlava mai della guerra. Parlava di episodi divertenti, di piacere, di amicizie, ma non parlava mai della guerra. E questo mi incuriosiva moltissimo, perché dicevo ci deve essere qualcosa di cui non vuole parlare. In effetti c'erano cose delle quali non voleva parlare e di cui i combattenti non vogliono parlare, perché ricordo la guerra deve essere una cosa semplicemente spaventosa. Quindi i lati autobiografici riguardano un po' quello che ho sentito da parte di mio padre e le mie esperienze di militare, che poi sono quelle che ha fatto comunque del fatto servizio di leva. Sì, purtroppo questo della memoria legata comunque di rifiutare di trasmettere un ricordo della guerra non è mai così raro, ecco. Spesso chi ha partecipato a una campagna d'Africa omette e non desidera ricordare. Sì, in effetti così non sono stati degli episodi. Abbiamo avuto altri casi anche in biblioteca, visto che ci occupiamo di memorialistica, dove ci siamo trovati proprio di fronte a una chiusura, magari molto collaborativi per altre cose, ma non su certi episodi di alcune spedizioni. Ecco, la sua carriera scolastica la vede appunto impegnata negli studi di sociologia, quindi questi studi l'hanno aiutata nel fare un'analisi. Questo forse se l'insegnamento maggiore che ho avuto da Trento è leggere tra le righe, mm-hmm. E ascoltare quello che non viene detto. Sostanzialmente, però, se vogliamo, a parte un interesse personale per quei periodi determinati della storia, sì, la sociologia c'entra sì, ma in un certo punto. È un romanzo. Certo. Diciamo che ci vuole anche appunto una fantasia nel riuscire a ricostruire una storia e allacciandola, inserendola nella storia generale, nella storia diciamo collettiva, con però appunto dei riferimenti precisi. Questi non mancano, ecco, nel suo racconto. Sì, c'è una costruzione molto precisa. Ho cercato di far sì che il romanzo fosse inquadrato in realtà storiche, cioè tutti i fatti citati sono reali. E i personaggi chiaramente sono cacciati dentro e martellati perché ci devono entrare, però in maniera tale che siano sistemati abbastanza chiaramente in quadro storico. Ci sono delle figure in particolare a cui lei si è ispirato nel costruire i suoi personaggi? Me stesso nella figura di Rino. Prego? Me stesso nella figura di Rino, il figlio del protagonista. C'è l'aspetto autobiografico, quello mi salta sempre fuori. Cose che sono più che altro mie, cioè. Ok. Bene, so che lei è impegnato anche nella scrittura così di altri racconti, ci vuole anticipare qualcosa? Prima di questo ho scritto 4 racconti, siccome io sono cresciuto a Palermo e vissuto a Bolzano, ho due anni che in conflitto molto spesso tra loro. E dei bellissimi ricordi, soprattutto sono dei ricordi di infanzia legati ai primi 10-12 anni della vita a Palermo e poi successivi a Bolzano, il clima è decisamente diverso, non dico la migliore della peggiore, ma semplicemente è chiarissimamente diverso. E non saprei quale delle mie parti del mio animo sono legate a Bolzano, a Palermo. Diciamo che a Bolzano ci sono dovuto restare, a Bolzano da Palermo non sarei mai potuto venire via, come bambino, come adulto probabilmente. Allora aspettiamo che vengano pubblicati anche i racconti. Sì, ci sono quattro racconti, sono ambientati due a Bolzano e due a Palermo, con dei personaggi comuni alle quattro storie, e in periodi diversi, anche in qualche decina d'anni, per cui ci sono stati dei problemi di timing da sviluppare, quindi abbastanza complicato. Non mi piacciono le cose semplici. Ecco, bene, neanche a noi. Bene, cosa dice? Facciamo entrare Carmen? Sono curioso. Sì, anche lui. Ecco, allora arriva Carmen Esposito. No, noi ci mettiamo giù. Sì, sì. Il ricordo di mio padre, Giovanni Furlanetto, ragazzo del 98, cavaliere di Vittorio Veneto, colombiano del Genio, combattente sulla Dalmeno nella Grande Guerra, in Eritrea durante la Guerra d'Africa e in Croazia e Sicilia durante il Secondo Conflitto Mondiale. Il frigio esistente del telefono lo svegliò alle 6. Padre Raffaele, buongiorno, scusi ora, ma c'è un paziente che ha chiesto urgentemente di vederla. E chi è? Signorini Francesco, enfisema polmonare, paziente terminale, sta per andarsene. Va bene, vengo subito, la dopo. Signorini, riflette il sacerdote, paziente anziano, da tempo con i polmoni irrimediabilmente compromessi. È un tipo simpatico, affabile, colto, intelligente e lucido, ma salvo i pensamenti dell'ultima ora, dichiaratamente ateo. Forse di fronte alla mare secca qualche dubbio mi era venuto. Il prete infilò le pantofole e tirò sulla cappella. Gli si presentò una vista grigia e deprimente. Don Raffaele Cottone, siciliano, era meteoropatico e intollerante al freddo. Buongiorno, sua Gerda. Purtroppo è il segno che quel buon uomo di signorini sta per andare al creatore, che lo ha capito. Siamo tutti nelle mani di Nostra Signora. Signorina, adesso di lei, vuole parlare. E cosa vuole confessare? Se sta emozione? Parlare, solo parlare, ha detto. Prima di la suora. Il naso aquilino, la fronte alta e stempiata, i capelli candidi, un viso severo che pur smunto dagli anni e dalla malattia ancora incuteva soggezione. Le voglio parlare, voglio semplicemente parlarle da uomo a uomo, raccontarle qualcosa. Lei è giovane, a grosso modo l'età che avrebbe Amorino, mio figlio, e adesso che la guardo bene lei mi assomiglia un pochino ad Amorino. Francesco Signorini, da tutti chiamato Cecco, aveva ereditato la passione per le armi del padre, proprietario terriero e vignaiolo, e dal fratello maggiore, entrambi cacciatori, entrambi eccellenti tiratori. Fin da bambino aveva partecipato con i grandi alle battute di caccia al cinghiale nella nativa marina. Nel 1911, Amorino, fratello maggiore di Cecco, era partito volontario con l'undicesimo bersaglieri per la guerra di Libia. Per il 23 ottobre, nella carneficina di Shashat, e come tutti i suoi compagni fatti a pezzi dal nemico, gli fu conferita la medaglia d'oro. Per cieco rimasto solo fu una ben magra consolazione. Il fratellone, sua guida e volare compagno di giochi, non c'era più. Rimase in lui un sordo rancore per il nemico, non meglio identificato, una voglia mai sopita di menare le mani, di vendicarsi di chi aveva osato uccidergli il fratello. Più che aggressivo, il giovane cieco divenne rancoroso, nazionalista ed astioso verso i nemici della patria. Ossia, per lui, chiunque non professasse venerazione, rispetto e ammirazione per l'Italia e gli italiani. E a quei tempi costoro non erano morti. Il 23 maggio del 1915 giunse la notizia della mobilitazione generale della sua, e la sua destinazione, Piero di Cadore. Fu subito dichiarato abile e fu presa nota della sua dichiarata attitudine di tiratore. Il 30 maggio il reparto fu schierato, i due ufficiali al centro della formazione. Il maggiore concluse il discorso con le famose parole di Garibaldi ai suoi volontari: da oggi non posso promettervi che fatica, stenti, privazioni e morte, oltre all'onore. Cecco sfiorò il biglietto e sentì il secco tac del 91 ed il rassicurante rinculo dell'arma sulla spalla. Per un attimo perse di vista il bersaglio. Secco! Gridò Toby, che osservava col binocolo. Ma chi ha reagito la caccia a fare la ribaldezzò? Il cecchino aveva fatto un brusco sobbalzo in avanti. Il fucile cadde nel vuoto e il corpo dell'uomo precipitò a sua volta nel baratro con un fantoccio disarticolato, rimbalzando più volte contro gli spuntoni dell'altissima parete rocciosa. Cecco aveva ucciso il suo primo uomo. Tanti altri mi sarebbero seguiti. Ma in guerra gli uomini sono solo bersagli. Un coro improvvisato aveva intonato. Thank you. Il compito di Cecco e Toni era quello di eliminare Hützendorf, la giusta vendetta italiana per l'assassinio sulla cofana di Rogers del generale degli Alpini Antonio Cantore, ucciso l'anno prima, ufficialmente da un cecchino austriaco. O forse, come si mormorava, ucciso dai suoi per l'irriducibile durezza di quel comandante. I due bevvero un po' di vino, cenarono con pane e salame e si stesero uno addosso all'altro per ripararsi dal freddo pungente della notte, indifferenti al puzzo che le uniformi sudice emanavano. Cecco sentì l'amico sospirare, poi singhiozzare. «Ma che fai? Non riesci a dormire? Ma che fai? Stai piangendo?» chiese. «Non c'era fatto per occupare la gente. Mi sa che sei anche tedesco, no?» «Dormi», dice Cecco, rifilandogli una pacca sulla spalla. «Mi sa che sei anche tedesco, o no?» Antonio Del Favaro, Toni, era un giovanotto alto, robusto, fulvo di capelli, abbronzato, la mascella quadrata, il naso adunco. Nato a Piede Cadore, era figlio unico di un falegname. Me papà si chiamava Beppi, come San Giuseppe, e faceva il falegname. Egli era tanto più vecchio della madre, e la mamma, guarda combinazione. La zecciana Maria era sebrava, buona e bella come la Madonna. A sto punto non so perché, non magari chiamava Antonio, Toni, poteva chiamarmi Gesù. Ripeteva spesso e compiaciuto. Dopo il lancio si era raccolto un gruppetto di soldati. Facevano girare una bottiglia di schnapps. Intonarono un canto, un coro, uno di loro li accompagnava con la fisarmonica. I loro non erano tanti messi, nostalgici, talvolta colmi d'orgoglio, ma sempre spesso rassegnati ai lugubri dei soldati italiani costretti alla guerra. Cecco, pur non capendo una parola, dal ritmo marziale, scandito e orecchiabile, dal tono stesso del canto, ne avvertiva la carica esaltante di bellicosità, di spavalderia, di trionfalismo. Questo è il momento. Sicché lei era una specie di Zeus che dall'alto di un irraggiungibile monte Olimpo aveva il potere di fulminare dei semplici mortali, disse Don Raffaele. Cerco sospirò, no, nessun delirio di onnipotenza, per piacere. Non era come andare a caccia di cinghiali, se è questo che intende. Mors tua, e da me arrivendo. Ho dovuto uccidere tanta gente in guerra, non perché mi piacesse uccidere, ma ero un mortinatore. Mi hanno usato per quello che sapevo fare. Io premevo un grilletto e uno sconosciuto moriva. Io dicevo allungate o accorciate in un telefono e altra gente veniva fatta a pezzi. Ma non ero io, era il sistema. Io ero solo un piccolissimo innocuo ingranaggio dell'immensa macchina della guerra. Uccidere era il mio lavoro di manovale bellico. Sicché non fu per una fucilata dell'amico Fritz che lei fu congedato, chiese il sacerdote quando Cecco ebbe finito il racconto. No, non fu Fritz, furono i gas asfissianti. Lei sa che per i gas il 29 giugno 1916 tra San Michele e San Martino morirono quasi 6.500 dei nostri. Le nostre maschere antigas non erano efficaci contro il fosgene e dopo un'ora nemmeno contro il cloro. E dopo il gas arrivarono i gruppi a finire feriti con le loro mazze ferrate. Conca di Plezzo, nell'Alto Isonzo, era già stata zona di aspri combattimenti. L'anno prima aveva lasciato l'undicesimo bersaglieri, reggimento nel quale aveva sentito anche Mussolini. Nel giro di qualche minuto ci piombarono addosso 900 granate cariche di gas asfissiante. Morirono soffocati dal gas oltre 500 soldati italiani, quasi l'intero terzo battaglione dell'87 reggimento Brigata Friuli. Io nella disgrazia fui fortunata. Avevo perso i sensi e i tedeschi mi credettero morto. I nostri mi raccolsero il giorno dopo e mi portarono a Cividale, all'ospedale da guerra della Croce Rossa. Furono bravi, mi salvarono per miracolo, ma avevo i polmoni rovinati. Veni mandato a casa in congedo. Da allora lo Stato mi passa una modesta pensione come invalido di guerra. L'avvento del fascismo per lui cambiò poco o nulla. Io cercavo di tenermi fuori dalla missia. Il fatto di avere la moglie tedesca, se mi esponeva all'astio dei sudtirolesi che consideravano quello di mia moglie un tradimento imperdonabile, dall'altra mi faceva apparire una sorta di virile italianissimo civilizzatore di barbare femmine teutoniche. Comunque, riuscivo a barcamenare, a non inimicarmi pericolosamente né una parte né l'altra. Così rimasi solo con Dorino, che aveva 8 anni, un figlio della lupa orfano della madre. Margherita era giovane, troppo giovane, troppo bella per morire. Un giorno eravamo in bottega, Rino mi chiese se potevo prestargli 5 lire. Quando gli chiesi cosa intendesse fare, mi rispose saltellando impaziente: sorpresa, guarda! Con le 5 lire in saccoccia si uscì volata nella sua uniforme da valida. Mezz'ora dopo le entrò in armeria, tutto soddisfatto, con dei pacchettini in mano. Per entrare! E andò a chiudersi in officina. Ne uscì raggiante, tutto eccitato. Babbo, vieni a vedere! Tuo figlio è un genio! E cos'è codesto aggeggio? È una radio, la gallina, babbo! L'ho fatta io! Rino era al 7° cielo. È la radio locale, babbo, la radio Bolzano! Senti! Scusate. Una vistosa scritta tracciata in nero vi si leggeva: Duce, tu sei la luce! Sotto, a caratteri più piccoli, calcinati in fretta e furia come la vernice bianca, e quindi ancora più appariscenti, i versi di ispirazione prussiana, aggiunti da qualche coraggioso scritto dissidente. Stai in piedi sta luce, volevo stare all'oscuro, vanno a pigliare a culo te che hai scritto e luce. Musicale delle voci, ma è andata così. No, la cosa che volevo aggiungere, che è una piccola aggiunta al testo dell'amico Alessandro, è la disposizione delle sedie buttate per terra, che può sembrare anche già visto, già fatto, già ripetuto, ma vuole veramente darvi molto fastidio e ricordarvi di chi è morto inutilmente e delle potenzialità inespresse delle persone che accanto a noi sono scomparse, che potrebbero scomparire in ogni momento, anche se noi continuiamo a ripeterci che non potrà mai più succedere. Non è assolutamente vero. E queste sedie a dar fastidio vogliono evocare proprio questo. Ho volutamente voluto darvi fastidio. Questa è la piccola aggiunta, che così com'è il rotolamento dell'elmetto della Seconda Guerra Mondiale. Questa è l'aggiunta che volevo fare. Grazie. Storici molto carini. Abbiamo un sussidiario fascista sul primo sgabello, dove gli ausiliari sono senza H, quindi A con la A centata, un sussidiario della città molto bello, un libro di mio padre con il tosso del 40, quindi questo non si può toccare, per guardarlo. Un'agenda dell'Opera Nazionale Balilla, dove mio padre ha attaccato le figurine delle varie uniformi, grazie, delle varie uniformi dell'epoca, anche di altri paesi, per cui Albania e così via, e un bellissimo catalogo di Alessandro del Radio Corriere TV del 32, che è una meraviglia. Anche gli elmetti sono originali, la radio è finta e inventata, ma sembra molto antica, sembra una radio. E basta. Poi non c'è un finto microfono d'antan, però se volete avvicinarvi e guardare queste riviste, pregandovi di toccarvi con cura. Basta, io ho detto tutto. Dichiaro ufficialmente finita la serata o lo dichiari? Se vuole rispondere a qualcosa.